Il terzo anello, ad alta voce. Francesco Siciliano legge Con gli occhi chiusi, di Federigo Tozzi. A Badia, quando scese dal tramvai, Pietro arrossì, quantunque non ci fosse nessuno, e scrutò sotto le persiane per scorgervi qualche viso che guardasse nella strada, soltanto piante di geranei polverosi. Apertogli l'uscio proprio da Ghisola, che però non lo fece entrare, egli subito si dolse che non fosse già andata a Radda. Ed ella rispose che aspettava lui e voleva prima essere sicura che i suoi genitori l'avrebbero volentieri ripresa in casa. Gli era inesplicabile la sensazione di trovarsi con lei già da tanto tempo. E perché no? Sono cattivi con te? Io non ci sto volentieri. Gli fece caso che rispondesse proprio a quel modo e non altrimenti. L'accarezzò pregandola. Tu non mi devi rispondere di no. Devi aspettare a casa tua. Mi farai piacere. Poi pensò, perché le domando di fare così? Se tu vuoi. Visto che ella era per ubbidire, chiese, vieni a Siena con me allora. Ella sorrise e gli fece cenno di tacere. Era convinto che dovesse provare una gran dolcezza ad ubbidirgli. Ma Ghisola, che aveva voglia di scherzare più che d'altro, gli chiese, ti piaccio meno? Perché dovresti piacermi meno? E le accarezzò tutta la faccia. Ella si discostò e gli guardò la punta delle dita. Perché non vuoi? Ti aspetto nella strada verso l'abbadia. Verrò, ora vattene. Le baciò ambedue le mani tenendogliene insieme, mentre ella si tirava addietro, quasi chiudendogli l'uscio in faccia. Ed egli pensava, scendendo le scale, ha sofferto, soffre, perché deve stare in una casa che non è sua. I genitori forse non le hanno più scritto, i parenti la invidiano, è parsa più sensuale. Ma io devo rispettarla lo stesso, anzi, di più, dopo la odierei. Invece non gli fece caso che potesse venirsene via così, appena gliene aveva parlato. Il signor Alberto s'era impigliato in un processo di fallimento e da una quindicina di giorni non si faceva più vedere da nessuno, nemmeno da lei, che andava a trovarlo di rado qualche mezz'ora nello studio di uno dei suoi avvocati, dove ormai passava tutto il suo tempo. Egli l'aveva pregata di tornare a Radda, soltanto finché il processo non fosse finito. Anche perché i parenti della moglie, che erano tra i testimoni, non soffiassero nella brace. Denari non li dava più. E più di una volta Ghisola aveva dovuto cominciare a contentarsi di pane mangiato soltanto con qualche frutta. Ma non volendo tornare a casa e non avendo dove andare, aspettava prima di decidere qualche cosa. Così non aveva dunque, dopo l'arrivo di Pietro, che da incaricare Beatrice di salutare il suo amico, pregandolo che non la dimenticasse. Tuttavia, per farle ricordare che Pietro l'aspettava, ci vollero le altre persuasioni di Beatrice, alle quali evidentemente il padrone aveva ricorso anche per questa faccenda. La donna l'abbracciò piangendo, con una tenerezza che la fece sorridere, lacrimando. Pietro, lontano dall'uscio, ad ogni passo che udiva sperava che fosse Ghisola. Finalmente la vide. Non pronunciarono nemmeno una parola. C'era tra di loro una specie di ostilità rispettosa. Ella volgeva gli occhi attorno ed egli seguitava sempre i suoi occhi che lo evitavano, quantunque paresse che lo vedessero lo stesso. Tuttavia, da poche parole che avevano dovuto dirsi, sentirono svanire il loro ritegno. Quando il tramvai si fermò, salirono. Ella aveva un cappello di paglia con un solo nastro di velluto nero, una veletta chiara sul volto, i guanti di filo bianco. Pietro s'accorse di quell'eleganza grossolana e perché se ne sentì commosso le toccò una mano. Egli certo sposatala l'avrebbe fatta vestire molto meglio, ma tutti la guardavano. ed egli ne era contento per lei. Andarono in fretta dalla piazza del Duomo alla stazione perché c'era poco tempo alla partenza del treno. Nelle vie la folla li faceva sovvenire di se stessi e della loro decisione, come se trasalissero. E allora si guardavano negli occhi. Ma presero lo stesso il treno per Siena, quasi senza parlarsi mai. Allora Ghisolo lo fece sedere accanto e si tennero per mano. La gente che saliva e scendeva dal treno, i segnali delle stazioni, le aumentavano la noia. A Siena ricusò di andare in casa della zia. «Ma perché non vuoi? Vorrà sapere troppe cose da me. Io agli altri non voglio dir niente di me». Ella ci riusciva a vivere come voleva. La sentiva forte e indipendente. Ma per assicurarsi che non lo faceva per nascondere qualche cosa, le disse: «Fai male. È la tua zia. Se andassi ad un albergo, vedendoti sola, penserebbero male di te. E tu non sai che io sono tua?» E insisté con un tono di voce quasi infantile, con certe moine, battendogli il ventaglio sopra un braccio. «Sì, accontentami. Vuoi fare sempre a modo tuo. Non è vero che questa sera accontenterai la tua Ghisola?» Volevano decidersi, perché la strada fino alla trattoria era corta e faceva già oscuro. Videro dietro la basilica di San Francesco una sfilata bassa di nuvole come il fuoco. «Ascoltami, ho pensato di portarti a mangiare da mio padre. Io gli ho detto che andavo a Poggi Bonzi, dove ho un amico, e gli inventerò che ti ho trovato in treno». Ella aspettò che uno smettesse di guardarla e poi rispose: «E crederà a noi?» Già la curiosità dei passanti li impacciava con molestia, con tedio penoso. «Certamente!» Ghisola stette molto tempo a testa bassa, non per riflettere, ma per sforzarsi a non pensare ad altro. E poi rispose: «Mi piace poco». Tacquero, perché si sentirono vicini a bisticciare. Poi egli, dopo uno di quei silenzi in cui si odono tutte le cose, la prese a braccetto fino allo scalino della trattoria. Domenico, quando li vide entrare, salutò Ghisola ma senza avvicinarsi e credette lì per lì alla scusa di Pietro, che del resto non aveva mentito mai. Il marito di Rebecca, con un piatto in mano, si fermò e le disse: «Appena avrò servito questi signori, avvertirò la tua zia». Ghisola, vedendo come la sua parente le potesse essere di pretesto per essere venuta a Siena, lo ringraziò. Domenico, che era di buon umore, dopo averla guardata sorridendo, così irriconoscibile da quando stava a Poggio a Meli, andò in cucina. E come se si fosse trattato di avventori, ordinò a voce alta da cena per Pietro e per lei, ma disse, anche per farsi intendere subito: «Questi non pagano!» Ghisola, disinvolta, si mise a ridere e le dispiacque solo per orgoglio che Domenico la trattasse per quel che era. Ma Pietro le fece rabbia. Non era punto furbo e non contava proprio niente in casa sua. Per far vedere che non aveva bisogno di mangiare in trattoria, non voleva sedersi a tavola. Ma Pietro la supplicò sottovoce di non insistere e le disse che il giorno dopo le cose sarebbero state chiarite. Ghisola, mangiando, non alzò mai la testa e pareva che avesse poco appetito. Ma Pietro le pestava leggermente i piedi e le diceva qualche parola perché dissipasse il malumore. Poi la lasciò nella trattoria a chiacchierare con la cugina Rosaura, accanto alla dispensa dove era meno luce. E Ghisola, accompagnata da lei, andò a trovare la zia, raccontandole una filza di abili menzogne con l'aria più ingenua che ci fosse. Rebecca le disse: «Per stasera non ho da darti da dormire qui. Dormirai con la tua cugina se il padrone è contento». Ghisola ridiscese ed entrò nella bottega, curiosa di vedere come sarebbe andata a finire. Gli era prossima la mezzanotte e le tavole della trattoria sparecchiate. I cuochi sonnecchiavano appoggiati al ceppo del tagliere, i fornelli si spengevano, come se anche la brace s'addormentasse. Tutti i lumi abbassati e la trattoria piena di quell'odore ripugnante di tante vivande insieme. In un corbello vicino all'acquaio, le bucce della frutta e gli avanzi. Improvvisamente la notte si fece più scura e piovve alcuni minuti. Una di quelle piogge che fanno notare subito il nostro malumore, come quelle che ribollono l'immondizia ammucchiata in mezzo ai campi. A Ghisola, presa dalla stanchezza e dal sonno, parve che piovesse nella sua anima, ma non riusciva a togliere tutte le cose che c'erano. Si sentiva soffocare lo stesso. Qualche lampo silenzioso s'accese tra le nuvole. Allora ella credette che avrebbe risentito quella pioggia in qualche sogno. Evitava di pensarci per essere attenta a quel che accadeva intorno a lei e a quel che dicevano. Domenico, svegliatosi dal canapè dove da qualche tempo dormiva almeno 2 ore prima di andare a letto, ordinò: «Chiudete le porte!» Era evidente la sua scontentezza, tanto che Rosaura non gli disse volentieri: «Io salgo in casa a trovare le lenzuola per Ghisola». Domenico non disse né sì né no, e si volse dalla parte opposta quando Ghisola, passando rapidamente vicino a lui, quasi provocandolo, lo salutò. La camera di Rosaura era così bassa che, stando sdraiati su uno di quei letti, si poteva toccare una trave. Una finestra strettissima, nel muro più grosso di 1 metro, dava in una corte angusta e umida, anche d'estate. Messe le lenzuola, Ghisola, togliendosi la giacchetta, domandò: «Dove dorme Pietro?» «Nella stanza solita di quando era piccino». «Ma vorresti andare a vederlo?» «Che braccia grosse tu hai! Senti come sono ingrassata!» Si fece pizzicare un fianco e poi andò. Riconoscendo bene la casa, si avanzò quasi a tastoni, attraversando la stanza d'ingresso e poi il salotto, meno buio, perché c'era la luce elettrica della strada. L'uscio della camera di Pietro era aperto, perché vi doveva passare Domenico per andare nella sua. Ella vide il tavolino con i libri, il canterano con lo specchio che luccicava, e proseguì verso il letto messo ad una parete. Pietro dormiva. Allora si chinò e cominciò a baciarlo sulla bocca. Egli, senza finire di destarsi, sentì un brivido ed esclamò a voce alta: «Sei tu, Ghisola?» Ghisola andò a Poggio a Meli, dai nonni, e così non rimise più piede nella trattoria. Pietro giunse al cancello aperto e, prima d'entrare da Giacco, si soffermò a guardare la luna, che pariva escita allora allora dalle finestre dalla parte di dietro della casa. Pensava anche che gli assalariati avrebbero ammirato il suo amore per una contadina, per una che era di loro. Egli e Ghisola andarono per la strada del campo, che dall'aia menava a quel ciliegio vicino al quale si erano parlati molti anni innanzi. Il ricordo pareva ancor lì, sotto le fronde. Ghisola era nervosa e pronta a darglisi tutta. Stava per dirgli: «Perché non te ne accorgi?» Ma Pietro era in un'estasi che aumentava, quasi parevagli di camminare sognando. Diceva: «Perché non guardi sempre me?» Infatti ella si volgeva soltanto di sfuggita e lo avrebbe lasciato lì solo volentieri. Ma dominandosi, come quando si era stesa con la schiena sul murello, contraffacendo la voce di lui, si fermò a guardare il cielo. Egli, credendolo, esclamò: «Una notte così non la vedremo mai più. Le stelle scintillano anche dentro i tuoi occhi. Te le vedo io». E la baciò lungamente. Ella scosse il capo, discostandosi. Era pazzo. La faceva soffermare ancora. Gridava di gioia. Ghisola, fuori di sé dalla voluttà, era come un'anfora che alla fine s'apre tutta secondo una sua incrinatura. E non si tenne dal dirgli: «Se tu fossi un uomo...» Pietro le rispose come a se stesso: «Io ti voglio bene». E siccome anche la sua estasi diventava sensuale, volle tornare addietro. Ghisola non doveva accorgersene nemmeno. Masa attendeva in cima alla strada con le mani sui fianchi, inquieta per tutte le insinuazioni allegre degli assalariati seduti attorno all'aia. Giacco s'era rincantucciato in casa, malcontento di dover tenere acceso troppo il lume ad olio contro il quale si buttava una farfalla con un corpo grosso quanto un dito. Il rumore delle sue ali, che di quando in quando si dibattevano, gli faceva alzare la testa e poi guardare dall'uscio scostato. Pietro e Ghisola allentarono il loro abbraccio, rasentando l'aia, mentre Masa disse sottovoce: «Non andate lontani!» Gli assalariati si chetarono apposta, anche per riguardo al padroncino, e si vedevano i loro volti che parevano senza linee nel chiaro di luna. Lo stollo del pagliaio era rimasto inclinato verso un tiglio. Appoggio a Meli ci si divertiva. Fuori del cancello i due giovani si ripresero per mano. Le lucciole, innumerevoli tra le chiome pallide degli olivi, sembravano aumentare continuamente. Le lucciole, che talvolta s'appiccicavano alle mani come se fossero state gommose. Cominciarono a baciarsi, ella appoggiandosi alla cancellata di legno ed egli stringendosi a lei, nascosti nell'ombra della siepe. Ma ad un tratto Pietro s'accorse che faceva movimenti troppo voluttuosi con tutte le anche. Si discostò e la rimproverò. Masa, sempre più intollerante, dopo essere stata in mezzo all'aia, turandosi la bocca per non rispondere agli assalariati che ascoltava a suo malgrado, chiamò proprio in quel mentre. E Pietro e Ghisola andarono a casa. Qualche assalariato, invaso da una giocondità intrattenibile, si grattava forte la testa. Carlo, curvo con le mani sulle ginocchia, sghignazzava tutte le volte che aveva dato uno sguardo verso Masa, e dentro una mano gli pareva di tenere quel che aveva toccato. Francesco Siciliano ha letto Con gli occhi chiusi di Federico Tozzi, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Annalisa Gaudenzi. Il terzo anello @rai.it. Per scaricare questo programma www.radio3pod.rai.it.